Bene, allora Luciana, io ti chiederei, visto che siamo in chiusura e so quanto ti è caro questo tema, di parlarci di una buona pratica che abbiamo, di cui abbiamo parlato nelle linee guida, che è quella che tu sperimenti nei centri di accoglienza e con la popolazione migrante di Mantova in particolare, che è quella dei gruppi di parola. Perché abbiamo parlato poco, diciamo, delle ferite, dei dolori e delle storie di vita di questi migranti di cui ci parlava anche l'onorevole Bartolo all'inizio, quindi sinteticamente riportaci alle storie di queste persone. Ok, ci provo. Quanto tempo ho? Cerca di stare 10 minuti, massimo, proprio massimo. Ok, allora fra 10 minuti Più cominciate a farmi dei gesti poesia che pratici. prosa, più poesia che narrativa, insomma, eh. Ok, più poesia che narrativa. Allora, più poesia che narrativo, ti leggo. Vile, buongiorno, grazie. Scusate, non vi ho salutati. Buongiorno a tutti, a tutte le persone che hanno fatto gli interventi prima di me, perché mi hanno consentito di fare molto ordine dentro la mia testolina un tantino confusa. E anche buongiorno ai miei colleghi di Mantova, del nostro consorzio di cooperative sociali, perché ho visto che qualcuno è qui ed è proprio con queste persone che abbiamo costruito l'esperienza di cui proviamo a parlarvi oggi. Però, Raffaele, rispondo letteralmente alla tua richiesta di poesia, perché nei gruppi di parola che abbiamo ideato all'interno del sistema dell'accoglienza di Mantova, che sta gestendo da 6 anni, quasi 7 ormai, un numero abbastanza ampio di centri di accoglienza, di CAS, di centri di accoglienza straordinaria, con una serie di criteri basilari per noi, perché continuativi rispetto al nostro schema di riferimento psicosociale. Quindi piccoli numeri, abbiamo sempre cercato di fare centri di accoglienza. Le nostre cooperative si sono prestate praticamente a fare quasi esclusivamente centri con piccoli numeri, quindi mai superiori alle 35-40 persone in casi straordinari, più o meno che più, il più possibile orientati all'apertura verso il territorio, e il più possibile impegnati come consorzio e come equip di lavoro dell'accoglienza nella pratica della formazione, perché noi siamo un consorzio che gestisce da una trentina d'anni, l'anno prossimo saranno 30 anni, che facciamo 30 anni di lavoro sociale nella clinica, nella pedagogia, eccetera, con più ampia gamma di problematiche sociali, ma 7 anni fa era la prima volta che ci mettevamo a lavorare molto seriamente con i migranti. La prima cosa che abbiamo imparato è che non ne sapevamo nulla e che dovevamo studiare molto, dovevamo metterci in un'ottica sostanzialmente di apprendimento direttamente da loro. E da lì nasce questa esperienza dei gruppi di parola di cui sta parlando Raffaele, e dovevamo anche farci aiutare in termini culturali da persone che invece da moltissimi anni generavano ricerca, studio, esperienza, libri, no? Quindi lavoravano moltissimo su questo tema. Quindi ci siamo fatti aiutare moltissimo. Abbiamo fatto moltissima formazione insieme ai nostri operatori sociali e abbiamo cercato di non perdere di vista in nessun momento del nostro lavoro, sia prima il decreto sicurezza che dopo il decreto sicurezza, cosa non irrilevante, abbiamo cercato di non perdere di vista il fatto che La questione dell'accoglienza non è solo e tanto un problema, o sempre un problema di fondi o di denaro, lo è stato, sicuramente lo è, ma è un problema di coordinamento, di visione dell'uomo, di esercizio di umiltà e di senso dell'altro. Quindi le cose che ci hanno orientato in tutti questi anni di lavoro sono state queste. Il secondo punto forte, a nostro avviso, perché che si era rivelato forte con la psichiatria, con le famiglie vulnerabili e fragili, con le persone disabili, il secondo punto molto forte era appunto il gruppo, cioè la gruppalità. Il fatto che quanto più una persona è sofferente, tanto più ha bisogno di un contesto gruppale all'interno del quale ritrovare un dialogo, ritrovare una conversazione e ritrovare sostanzialmente qualcuno che lo ascolta, che lo comprende in qualche modo e che se non lo comprende gli chiede di essere aiutato a comprenderlo. Ecco, direi che la matrice un po' culturale del gruppo di parole è stata questa. Quindi siamo arrivati a proporre come consorzio di cooperative, insieme alle nostre cooperative e con alcuni operatori delle nostre cooperative, in particolare con due operatrici straordinarie, di cui una è presente oggi pomeriggio, se non vado errata, ma anche con la collaborazione delle equip, no? Delle varie equip di lavoro, siamo arrivati a dire: ok, siamo in una strana posizione. I nostri ospiti sono in una strana posizione perché sono giustamente, come dicevate, qualcuno di voi diceva poco fa in una maniera chiarissima, meravigliosa, sono stritolati tra pratiche di accoglienza e pratiche di espulsione, in una sorta di girone infernale, come una porta girevole, no? Dalla quale entrano ed escono continuamente. Molto pochi di loro hanno la fortuna di ottenere, come possiamo dire, l'accoglienza, la prima commissione, no? C'è tutto questo lavoro, che va fatto in previsione di una preparazione al tribunale, eccetera, eccetera. Per cui, abbiamo avuto ampia pratica, abbiamo sentito dei racconti, drammatici da parte dei soggetti che hanno frequentato i nostri servizi e anche il gruppo di parola. Intorno a queste paradossalità, no? Cioè, da un lato chiediamo loro di essere vulnerabili perché così li possiamo accogliere, dall'altro però chiediamo loro di essere molto forti perché altrimenti non ce la faranno a resistere in questo mondo durissimo che è il paese ospitante, no? Questa è una delle paradossalità. Luciana, ti do un minuto. Un minuto. Ok, allora in un minuto abbiamo costruito una pratica costante che purtroppo è temporaneamente sospesa a causa del Covid perché non possiamo incontrare fisicamente le persone, ma abbiamo costruito questa opportunità di frequentare liberamente dei gruppi di conversazione, di parola. A prescindere dal paese di accoglienza, con un'unica di provenienza, scusatemi, con un'unica distinzione, i gruppi erano o gruppi maschili o gruppi femminili, perché nel momento in cui abbiamo tentato di fare dei gruppi misti, abbiamo visto che si innescavano delle dinamiche che rendevano molto, molto complessa la conversazione. All'interno di questi gruppi, il compito era, riconoscersi, parlarsi, confrontare gli elementi culturali che nei diversi paesi rappresentavano la condizione di benessere, di malessere, di salute, di malattia, di libertà, di prigionia, e confrontarsi su un progetto, su un futuro possibile progetto di vita. La cosa per noi straordinaria è stata la, come possiamo dire, la forza di sostegno, di apprendimento e di incuriosimento, non so come dire, di produzione di curiosità che questi gruppi hanno mosso sia nei partecipanti che negli operatori che conducevano il gruppo, per esempio in me, no? E quello che è accaduto è stato un po' come dire, siamo stati e siamo tuttora a lezione di antropologia, siamo a lezione di rappresentazioni culturali, quindi ora io non sono più in grado di dire con esattezza, forse non lo ero nemmeno prima, ma adesso ne sono particolarmente convinta, che esista una salute fisica scollegabile da una salute mentale, scollegabile da una rappresentazione culturale. La salute è. Luciana, ti blocco su questa cosa e ci tenevo a sottolineare che io ci ho tenuto a chiudere questa panel di interventi non con la voce dei servizi di salute mentale, ma con la voce di chi fa accoglienza e quindi con un racconto che viene da chi fa accoglienza e chi, come ti dicevi, in questi anni ha dato voce a queste narrazioni dal punto di vista di chi fa accoglienza, che poi diventa fare clinica, che poi diventa occuparsi della salute, insomma, in quel processo così integrato di cui si diceva. Sono mortificato di dover interromperti, Luciana, solo la passione che hai messo e che questi anni, del resto sono anche mortificato di dire non abbiamo tempo per domande. Io credo che altrimenti si ridurrebbe ancora i nuovi partecipanti, perché siamo andati ampiamente oltre quello che era il tempo di conclusione. Abbiamo anche trattenuto qui per quasi 3 ore l'onorevole Bartolo, che ringraziamo della pazienza dell'ascolto veramente, e chiediamo a lui di concludere questa sessione. Raccolgo dei ringraziamenti da coloro che devono abbandonare per aver condiviso questi momenti di riflessione. Questo ovviamente siamo molto contenti. Onorevole, a lei. Sì, grazie, grazie, grazie Raffaele. Beh, avrei voluto raccontarvi tante cose della mia esperienza, i 30 anni di lavoro che ho svolto qua a Lampedusa, ma insomma capisco che l'ora è molto tardi, per cui insomma cercherò di essere quanto più breve possibile. Dico, ho ascoltato con attenzione i contributi degli amici, dei colleghi che hanno parlato prima. A me spetta ora il compito di concludere questo incontro. Beh, gli spunti di riflessione sono stati veramente tanti, perché ognuno di noi ha messo in questo progetto parte del proprio vissuto, esperienze vissute di prima mano nei settori della medicina generale, della psichiatria, della mediazione, quindi dell'accoglienza e della giustizia. E quello che è emerso in maniera inequivocabile, devo dire, dal nostro incontro è che serve uno sforzo di coordinamento tra tutti gli attori in gioco, tutti, perché la promozione della salute fisica e mentale in queste persone, e io insisto, chiamarle queste persone, persone e nient'altro, non si riduce nella mera assistenza sanitaria. Concordo con quanto ha detto il collega Aldo Virgilio e sottolineato anche dall'onorevole Zampa, cioè dire che la salute fisica e mentale non si tutelano con la semplice erogazione di prestazioni professionali, seppur di alta qualità, ma dal mantenimento nel tempo di tutte le condizioni che tutelano il loro benessere, riconoscendo sempre i diritti dei più fragili. La salute è il prodotto di una interazione virtuosa e convergente di tantissimi sistemi e settori, il sociale, il sanitario, l'istruzione, la ricerca, la giustizia. Riprendo anche le parole del viceprefetto Maria Assunta Rosa. Non si lavora da soli nel settore dell'immigrazione, non ci sono competenze esclusive. E consentitemi di riallacciarmi alle parole del collega Virgilio sull'importanza della figura del mediatore che va al di là del mero aiuto linguistico e che purtroppo non sempre trova il giusto riconoscimento all'interno dei nostri ordinamenti. Purtroppo l'hai detto anche tu, Raffaele. La salute dei migranti forzati, soprattutto quella mentale, deve inserirsi all'interno di una rete di interventi che partendo dalla prima assistenza deve arrivare fino al completo inserimento nella comunità di accoglienza. Ci tengo a sottolineare che questo sforzo non va solo a vantaggio del paese di accoglienza, perché purtroppo tendiamo a dimenticare che queste persone vanno viste in un'ottica di capitale umano per la crescita, anziché di ridurlo a costo sociale e assistenza. Ma è fondamentale anche per il benessere psicofisico di chi chiede asilo o del rifugiato, è fondamentale. Una speranza di futuro è infatti una condizione essenziale per poter convivere un passato traumatico. È già stato scritto che i migranti forzati sono persone spesso invisibili, così come invisibili sono le loro ferite, perché l'esperienza di avere vissuto, di avere subito ed essere sopravvissuto alla violenza lascia un dolore psichico che si accompagna spesso a un senso di vergogna che spinge i pazienti a nascondersi, allontanandosi dagli altri esseri umani o addirittura a sentirsi colpevoli. In 30 anni di professione medica ho accolto, curato, ascoltato migliaia di uomini, donne, bambini invisibili, esperienze che ho documentato con foto e video nella speranza di svegliare, di scuotere le coscienze collettive. Persone che soffrivano dei disturbi da stress post-traumatico, di depressione reattiva, di sindrome ansiose, sindrome da disadattamento. Poi ci sono i migranti che arrivano dalla Libia, e qui potrei stare delle ore a descrivere le condizioni in cui arrivano e le patologie che ho riscontrato in questi 30 anni di professione. Ho visto arrivare persone in condizioni estreme e mi riaggancio a quanto detto dall'onorevole Zampa sulle condizioni delle donne. Sapete, io sono un ginecologo, ho fatto anche il ginecologo, qua è più di me, che più di me è sensibile alle loro salute non solo sessuale ma anche riproduttiva. Non ricordo di avere mai visitato donne subsahariane che non fossero state stuprate in Libia, violentate. E purtroppo la stessa sorte tocca alle ragazzine e persino alle bambine. Sì, alle bambine. Ho visto delle bambine di 4-5 anni violentate, stuprate, una cosa disgustosa, disumana. Così come non c'è uomo che non sia stato rinchiuso in centri di detenzione, governative o meno, che non abbia subito torture ed esecuzione sommaria. Ho visto giovani africani arrivati a Lampedusa letteralmente scoiati. Li ho visti, non che ho sentito parlarne. Li ho visti, li ho curati. E poi c'è l'attraversamento del Mediterraneo, con i naufragi, il blocco navale, il rifiuto di entrare nei porti, il rimbalzo delle responsabilità, le navi quarantena. A tutto ciò si sommano le difficoltà che si ritrovano dopo l'arrivo in Europa, quando la loro condizione di vulnerabilità li espone a ulteriore ritraumatizzazione. Ne sono un esempio i centri di accoglienza sovraffollati o anche situazioni traumatiche legate all'attraversamento terrestre. Abbiamo tutti presenti le immagini di famiglie che ai confini balcanici si sono viste respingere anche con violenza dalle forze dell'ordine. E allora ripeto quello che ha detto l'ultimo oratore: mettiamoci per un momento nei loro panni. O ancora le ulteriori difficoltà vitali post-immigratorie, solitudine, discriminazione, scarso accesso ai servizi, lungaggini burocratiche, discriminazioni, espulsioni. Ecco, tutti questi eventi spesso riattivano il vissuto traumatico originario al quale vengono associati. Va detto chiaramente che anche su questo la ricerca è concorde, ovvero che tutte le ricerche effettuate convergono nel sostenere che le ritraumatizzazioni legate alle difficoltà di vita post-migratorie sono responsabili di un peggioramento significativo dei sintomi post-traumatici, sia quelli specificatamente inclusi dai sintomi proprio nei sintomi post-traumatici, sia quelli sentinella, come le somatizzazioni. Le presentazioni del dottor Costanzo, che abbiamo visto, ha fornito un quadro completo della situazione, insistendo particolarmente sulla vulnerabilità dei minori. Che cosa fa l'Europa in tutto questo? Questa domanda me la chiedono spesso. La Corte Europea, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha evidenziato come richiedenti asilo debbano essere considerati come soggetti facenti parte di un gruppo particolarmente vulnerabile e svantaggiato, titolare di un bisogno di protezione specifico, richiamando il principio secondo cui a determinate categorie di soggetti svantaggiati e vulnerabili doveva essere assicurata una protezione speciale e rafforzata. Al di là di queste intenzioni, sappiamo che la realtà va in un'altra direzione. Molto spesso le condizioni di accoglienza della nostra Europa sono inadeguate, lo abbiamo constatato. Abbiamo visto in passato migranti trattenuti in mare per giorni, anche dopo essere state soccorse, in attesa di autorizzazione allo sbarco. Abbiamo ascoltato dalle parole di Patrick Doelle che il diritto di accoglienza è garantito dalla direttiva del 2013, una direttiva già modificata dal Parlamento e al Consiglio, ma che si trova ancora ferma a livello degli Stati membri per una serie di vete incrociate. Aspettiamo quindi fiducioso il piano che sarà pubblicato la prossima settimana e siamo già riconoscenti del fatto che la promozione della salute rientri tra le priorità e sulle possibilità future di finanziamento, sulla prossimità di finanziamento. Quindi nel frattempo abbiamo già iniziato i lavori che porteranno all'adozione del nuovo patto europeo per le migrazioni. È una delle nostre priorità è proprio rafforzare le garanzie procedurali specifiche dei richiedenti asilo vulnerabili. Per concludere, e finisco perché scusatemi, l'ho fatto un po' lunga, tutti i migranti forzati sono da considerarsi come soggetti a rischio a causa della frequenza e dell'intensità delle esperienze di tipo traumatico che ciascuno di loro affronta prima della partenza, durante il viaggio e nel nuovo contesto di vita. Sta a noi individuarli, accoglierli, curarli e offrire loro un'opportunità di riscoprirsi individui capaci di vivere una vita piena e dignitosa. Quindi grazie per il lavoro che state facendo e speriamo che insieme possiamo trovare una soluzione che sia adeguata per queste persone e anche per noi. Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a Raffaele, grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Grazie Pietro veramente per queste conclusioni che mi sembra riassumono perfettamente la presa d'atto di quella che è la sfida ancora chiaramente non vinta di garantire quei diritti di salute, di tutela, di riconoscimento della sofferenza che ha attraversato le vite di queste persone e di dare piena appunto garanzia di almeno un tentativo di tutela di questa salute. E quindi grazie veramente, grazie di quello che hai fatto sin qui e poi sicuramente di quello che ci aiuterei a fare anche in futuro. Quindi ringrazio anche tutti i partecipanti, ringrazio Assunta Rosa che è diligentemente ancora presente fino allo sfinimento. grazie al dottor Costanzo, grazie a Massimiliano Aragona, grazie a Luciana, grazie a Aldo Virgilio, insomma grazie a tutti coloro che sono intervenuti e ci hanno sostenuto nel processo di produzione di queste linee guida. Continueremo ovviamente a sollecitare l'aiuto di tutti gli amici per far sì che queste linee guida vengano, aiutino, diano un contributo per il miglioramento dei livelli dell'accoglienza e della presa in carico dei migranti forzati nei sistemi di salute per la parte psicologica e psichiatrica. Spero di non aver dimenticato nessuno, quindi ancora grazie a tutti, grazie ovviamente a Chiara, grazie a Stefania Valentini e a tutti gli altri che ci hanno aiutato qui per organizzare questo evento, grazie alle traduttrici, scusate ho dimenticato, grazie alle traduttrici e a presto spero di nuovo su iniziative che abbiano come oggetto l'integrazione, la tutela della salute fisica, mentale dei migranti e lo sforzo per una costruzione di una società un pochino più accogliente. Grazie, buon lavoro a tutti. Ciao Raffaele, grazie a tutti. Grazie, ciao Gianfranco. Ciao, ciao, ciao. Grazie a tutti.